da una necropoli antica a una necropoli moderna. La Certosa, il suggestivo cimitero monumentale di Bologna, nasconde un'infinità di segreti tra i suoi meravigliosi monumenti funebri. Nell'area che era stata sede della necropoli etrusca, sorse un monastero certosino consacrato a San Gerolamo nel 1334. A fine Settecento, con la soppressione degli ordini religiosi voluta da Napoleone, il monastero venne espropriato e si decise di collocare qui il cimitero cittadino, per via dei requisiti ideali relativi alla rete idraulica e alla libera circolazione dell'aria. Gli architetti Angelo Venturoli e Luigi Marchesini mantennero sostanzialmente l'aspetto originale della Certosa, limitandosi a riqualificare gli ambienti esistenti. Il cimitero venne inaugurato nel 1801. Si deve poi all'architetto Ercole Gasparini la costruzione dell'ingresso monumentale, con i suoi ampi pilastri sormontati da statue, che fu aperto nel 1802 con lo scopo di fornire un accesso più razionale al chiostro maggiore e al chiostro terzo, i nuclei principali della struttura. Qualche anno più tardi, lo stesso architetto si fece promotore della costruzione di una serie di archi di collegamento con il portico di San Luca. Una curiosità. Per tutto l'Ottocento, la Certosa di Bologna fu meta delle visite degli intellettuali europei, tra i quali Charles Dickens, Lord Byron, Jules Janin e Sigmund Freud. Scrisse Lady Morgan nel 1821. La Certosa o Chartreuse di Bologna potrebbe rivaleggiare con l'abbazia certosina di Pavia. I suoi vasti chiostri presentano un labirinto oscuro e freddo. Alcune delle proprietà della chiesa qui preservate, seppur nate da un disegno ben concepito, sono nella pratica terrificanti. La tomba del Salvatore, apparentemente ben tagliata, contiene una figura immensa e triste, enorme, avvolta in un vero panno macchiato di sangue. E c'è in uno dei chiostri una gigantesca scura Madonna dai fissi occhi di vetro, che spaventerebbero perfino la devozione di un religioso delle isole Sandwich. Tra le personalità più significative sepolte alla Certosa, ricordiamo il pittore Giorgio Morandi, il premio Nobel per la letteratura Giosuè Carducci, il cantante d'opera Carlo Boschi, più conosciuto con il nome di Farinelli, il cantautore Lucio Dalla e i fondatori delle aziende Maserati, Ducati e Zanichelli. Unica bolognese ad avere il privilegio di avere ben due monumenti funebri è Anna Bonazinga D'Amico, celebre per essere stata la chiaroveggente più rinomata del XX secolo. Costei tenne un gabinetto medico magnetico, promuovendo la sua attività nei più diffusi giornali dell'epoca. «Avviso interessantissimo», recitava uno di questi. «Per consultazioni su qualsiasi malattia, la sonnambula signora Anna D'Amico, essendo una delle più rinomate e conosciute in Italia ed all'estero per le tante guarigioni operate insieme al suo consorte, si fa un dovere di avvisare che inviandole una lettera franca con due capelli e i sintomi della persona ammalata ed un vaglia di lire 3,20, nel riscontro riceveranno il consulto della malattia e le loro cure». Sia lei che suo marito, il magnetista Pietro D'Amico, erano cultori del mesmerismo, una metodologia ideata dal medico tedesco Franz Anton Mesmer che prevedeva la cura di varie patologie tramite l'induzione di uno stato di sonnambulismo del paziente simile all'ipnosi, chiamato sonno magnetico. Particolarmente suggestiva la statua di Anna D'Amico, dalle orbite vuote a testimonianza della capacità della donna di vedere oltre ciò che i comuni viventi erano in grado di vedere. Vale la pena sottolineare che all'inizio dell'Ottocento, quando la Certosa fu inaugurata, negli ambienti intellettuali europei e bolognesi si erano diffusi svariati culti legati all'occultismo. È questo uno dei motivi per cui tra i monumenti sepolcrali non è raro imbattersi in simboli tipici dell'esoterismo. Ne sono esempi l'uroboro, il serpente che si morde la coda, simbolo dell'infinito, caratteristico della tomba di Giovanni Guidi, o lo stile egizio della tomba di Girolamo Legnani, che riprende il modello settecentesco di Giovanni Battista Piranesi. Il primo e il terzo chiostro sono caratterizzati dalla presenza di numerose tombe di marcata ispirazione massonica. La maggior parte sono, caso unico al mondo, dipinte sui muri. In questi dipinti ogni simbolo ha il suo significato, con sfingi, simbolo dell'aldilà, colonne, simbolo di integrità morale, rane e rospi, simbolo della notte, ma anche del demonio, civette, simbolo della notte e del fuoco alchemico, e naturalmente le caratteristiche squadra e compasso, simbolo dell'ordine massonico. Singolare il caso della tomba del commediografo Francesco Albergati, morto nel 1804. Lo scrittore Bernardo Gasparini ha immaginato di incontrare il suo fantasma nel 1845. Nei versi dell'opera Due notti alla Certosa si trova a chiacchierare con lui cercando di far luce sull'accusa che fu rivolta all'Albergati nel 1785 di aver ucciso la sua seconda moglie. Poltergeist in salsa bolognese.